if Mihailovic goes, do you have already an idea for the alternative? You understand. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ripeto, per me è stata un'emozione fortissima, ecco, il ritorno allo Juventus Stadium, già ieri all'allenamento, oggi è stato un tuffo nel passato ed è un passato bello, importante che non posso dimenticare, non si può dimenticare. Dimmelo, ridimmelo, su, non aspettare più, quante volte hai pensato a me? Col presidente ci siamo visti prima della partita, anche col direttore Marotta. È stato un piacere come lo è sempre ogni volta che lo vedo. Bentornato a casa, bentornato qui tra noi, bentornato. Fiducia nello spirito, ecco, di questi ragazzi che dimostrano veramente di tenerci la maglia azzurra e di giocare con grande orgoglio per il paese. Io penso che questo non lo possa negare nessuno, a volte possiamo piacere, altre volte meno, però stiamo lavorando per crescere sotto tutti i punti di vista, ecco, sapendo che il cammino è ancora bello lungo. Ben, ben, ben, ben tornato a casa. Come previsto, Torino inteso come agente bianconera, naturalmente, quella granata non lo so, riabbraccia Conte, la nazionale si lascia guardare per una settantina di minuti, 1-1 con l'Inghilterra e per la prima volta, questo è un altro bel argomento, poi lo trattiamo, scopriamo di che colore sono i seggiolini dello Juventus Stadium, perché di solito sono tutti esauriti, ieri sera non tanto, 31.000 secondo le cifre ufficiali, 31.000 qualcosa. Grazie a Periscope, per il quale il nostro Giorgio De Luca, il nostro autore, sta impazzendo. Vi invito a seguirci, a seguire noi, a seguire anche Pardo. Grazie a Periscope so che in questo momento Pardo è un ristorante italo-indiano a Lisbona. No, non ci sono andato. Ma come? Allora è un fake. Ma no, è un fake italo-indiano. A parte che la cucina portoghese è la mia preferita, credo, al mondo. Quindi... Sì, ma è stata colonizzata da quella africana, perché Portogallo battuto in casa da Capo Verde, ma la cucina portoghese non esiste più. C'erano tutte le riserve, però insomma diciamo che una pagina per il calcio portoghese è una pagina abbastanza clamorosa, abbastanza drammatica, un po' stravichevole. È anche molto ridicola, chiaramente... colonizzata da Capo Verde fa molto ridere, Capo Verde poi è una colonia storica del Portogallo, quindi insomma diciamo è proprio veramente sì, è una Corea però diciamo che insomma essendo un'amichevole alla fine se ne fanno una ragione, faranno tanto fieri alla fine della partita, l'allenatore era abbastanza sereno, tranquillo, era sereno l'attitudine, l'impegno, la verità è che il Portogallo ha 14-15 giocatori di livello molto molto alto, appena cominciano a palesarsi le riserve, insomma. Ma Capo Verde è Capo Verde, però Pier. Cioè, non sapevo nemmeno che ci avessero i campi di pallone. Che giocassero a pallone. L'ho scoperto Campo stamattina. Verde, oggi è Campo Verde. Campo Verde meraviglioso. Allora, 800-24-0024, se vi è piaciuta la nazionale di Conte, se volete fischiarla, se volete applaudirla. Intanto ieri tutto fa brodo, no? Tutto fa brodo, anche Val di Fiori, anni 29, che secondo me ieri è stato insieme a Buffon, va detto, il migliore dell'Italia, e oggi già si comincia a parlare di mercato, ha costato a Napoli per la gioia di Giorgio De Luca 5 milioni e mezzo di euro e lui non declina, È ovvio che queste voci su di me di questi grandi club fanno veramente piacere, però mi danno quella carica in più. Però sono anche onesto nel dire che sta lavorando il mio procuratore Giuffredi e sta facendo tutto in silenzio, soprattutto per rispetto verso una società come Empoli, perché io ho ancora da portare a termine un traguardo che è quello con la salvezza con la maglia dell'Empoli. Quindi io devo star concentrato lì, lui magari so che sta lavorando, non, lo ripeto, non mi dice nulla, poi di quello che sarà Val di Fiori lo vedremo fra 2 mesi. Forse pure prima, intanto insomma mi sembrano piuttosto chiare le parole del neo giocatore della nazionale, così come chiare sono state quelle di Pellè, che è tornato ieri sera a segnare dopo un'infinità di tempo, perché in Inghilterra non la metteva dentro da prima di Natale, 20 dicembre. Il gol contro l'Inghilterra è un risalto maggiore, però quando arriva la palla devi far gol comunque. Sono contento di aver fatto contro di loro, però quando vado in Inghilterra sarà bello, no? Scherzarci un po', però sono contento, ripeto, per i gol, speriamo che continui ad arrivare. Traffico, poi torniamo con Pierluigi Pardo, con altri convocati e soprattutto con voi. 800 24 00 24. Tanto più tifosi abbastanza furibondi cominciano esplodere qualche bombone, tanto per riscaldare la serata. Tutti convocati. Sua vecchia posizione di esterno sinistro, il dribbling, il cross in mezzo, il colpo di testa e il gol di Pellè, ha segnato l'Italia, gran gol di Graziano Pellè, il secondo in azzurro, e l'abbraccio con Giorgio Chiellini. Colpo di testa di Vasquez, prova ad allontanare, non ci riesce, Townsend carica il destro, non è il suo piede preferito, ma trova un gol spettacolare, ha pareggiato l'Inghilterra. L'esempio di Val di Fiori è lampante, perché non guardo il curriculum, guardo chi sta facendo bene. Ripeto, il Val di Fiori secondo me ha meritato e oggi ha giocato un'ottima partita, calcolando che era all'esordio contro l'Inghilterra. Complimenti a lui, merita di essere in questo gruppo, merita di avere grande considerazione, quindi io ho bisogno di questi tipi di giocatori, Pellè ed è lo stesso, giocatori ecco che veramente tutti quanti oggi hanno onorato la maglia e hanno lottato. Dunque vuole la lotta Antonio Conte. Io intanto saluto e ringrazio Savia Cobelli, direttore di calciomercato.com. ciao direttore. Buongiorno a voi, buongiorno agli amici ascoltatori di calciomercato.com. Pierluigi Pardo vota l'Italia. Ma buono, direi 6.5, 6.5, 7. Poi onestamente ho visto soltanto le immagini di dopo, non ho visto la partita per intero, quindi però mi sembra che ci sia stato l'atteggiamento giusto, lo spirito giusto, il pareggio è stato abbastanza casuale, abbiamo giocato discretamente, soprattutto c'è questi elogi per Pellè, per Val di Fiori, non sono casuali. Conte cerca un certo tipo di spirito, un certo tipo di disponibilità al lavoro, che chiaramente chi allenava la strada di club era il suo pane quotidiano. Adesso è un po' più difficile, perché sappiamo bene che la nazionale ha meno spazi, ha meno tempi, e qualche volta qualche giocatore di grande livello è anche un po' meno disponibile, nel senso si gestisce legittimamente un po' di più. E invece lui con i gregari si sta divertendo, contento di aver sentito gli applausi e non i fischi. Mi è sembrata una pagina positiva, una pagina utile al calcio italiano, a Conte, che porterà a serenità. Sì, dall'ambiente vorrei partire con Savia Cobelli, per tantissimi anni direttore di Tutto Sport, Torino è un ambiente che conosci molto bene, direttore. Io non avevo grandi dubbi sull'accoglienza a Conte da parte della gente bianconera, e poi la società è un'altra storia. Sono d'accordo con te, assolutamente d'accordo con te, infatti il pubblico dello stadio ha confermato questo sentimento, che secondo me è inattaccabile e che lega milioni di tifosi della Juventus all'uomo della rifondazione, della ricostruzione. Sarebbe stato impensabile, e la credine e l'ingratitudine che avevamo registrato, soprattutto a livello di social network, dopo quanto è accaduto, anzi sarebbe meglio dire non è accaduto a Marsiglio, che riversasse in un'accoglienza ostile allo stadio. Questo è stato il grande capitano della grande Juve di Lippi, questo è stato l'uomo che, provata la Juve dopo 2 settimi posti e l'esclusione delle Coppe Europee, l'ha portata a vincere 3 scudetti di fila, l'ultimo dei quali con il punteggio record di 102 punti, 2 supercoppe di Lega, ha restituito l'orgoglio e il senso di appartenenza a milioni di tifosi bianconeri. Sì. Quindi questo il tifoso non lo dimentica, peraltro non lo dimentica. Credo che Conte abbia avuto ragione su tutta la linea, perché non c'è più nessuno, mi pare, quantomeno in queste ore, che contesti la convocazione degli oriundi in nazionale, segnatamente di Eder. Tant'è vero che Mancini, che aveva rilasciato quella dichiarazione, ha il sacrosanto diritto di manifestare la propria opinione, però allena una squadra che conta 24 stranieri e 6 italiani in organico. Certo. Pierluigi, stavi dicendo tra l'altro Townsend, tra l'altro chiedo scusa, ma Townsend è oriundo anche lui. Sì, ma come ce ne sono un sacco, è il logorio della vita moderna, diceva quello. No, ma questo è il melting pot del mondo di oggi. È chiaro che noi siamo meno abituati, perché rispetto ad altri paesi abbiamo avuto, diciamo, meno colonie e meno contaminazione negli anni scorsi, per cui ci fa un po' più effetto, però poi alla fine è esattamente questo discorso. E poi abbastanza pragmaticamente contano i regolamenti: il giocatore è arruolabile alla causa, perché non deve essere convocato, soprattutto se ha voglia, e soprattutto se c'è così poco talento. Piero, se c'è così poco talento, cioè, sono soddisfatto anch'io di quello che è successo ieri dal punto di vista dell'accoglienza. Credo che poi il discorso che facciamo ieri con Giuliani, cioè, quindi capitolo esiste, chiuso. Ma direi sì, io credo, almeno dal punto di vista dei rapporti fra Tifo e Conte, credo che appunto ci sia una giusta sottolineatura da fare sulle differenze che esistono fra il tifoso da tastiera, come dicevamo ieri, o comunque insomma la persona da tastiera, il contestatore professionale da tastiera, virtuale, e poi sì, il comportamento reale delle persone che grazie a Dio è molto più maturo, è molto più logico, ma non perché non lo si possa contestare Conte, per carità, perché veramente no, ma non in modo pretestuoso, Juve, come avevamo detto, da parte dei tifosi della Juve c'è stata irriconoscenza dopo tutto quello che è stato da calciatore e da allenatore. A me avrebbe fatto male, perché penso che invece una delle cose belle di questo sport è che si porta dietro dei romanticismi, comunque ricordi, cioè ci lega, e quindi insomma come è contestato dai tifosi della Juve faceva ridere. No, faceva ridere. No, però direttore, aspettiamo la prossima puntata, il prossimo capitolo invece della querela contro la Juventus. Ma certamente sì, ma io francamente soltanto i diretti interessati, se un giorno lo desidereranno, ci spiegheranno quale sia l'origine, il peccato originale di questi strascichi di un divorzio che è stato sicuramente traumatico a metà del luglio dell'anno scorso. Però ritengo anche che si debba chiudere questo capitolo, intanto perché da un lato evidentemente Conte, con la sua avventura di commissario tecnico, tuttora è imbattuto e in piena corsa per la qualificazione all'Europeo 2016, ha dimostrato di che passo si è fatto anche sulla panchina della nazionale. E dall'altro la Juventus, che lo rammenteranno gli amici ascoltatori, nell'arco di 24 ore nominò Massimiliano Allegri successore di Conte e lo portò a Binovo ad onta di una accoglienza che non fu certamente idilliaca da parte di tutta la tifoseria bianconera, perché adesso è facile elogiare, o comunque viene, come dire, naturale anche a chi lo contestava, elogiare il lavoro di Massimiliano Allegri, che sta per vincere il suo primo scudetto sulla panchina della Juve al primo tentativo, il quarto consecutivo, certo, che è nel quarto di finale. Senti, ma togliamo una curiosità, ma col sottolineare quel 24 ore dici che era già tutto previsto? Cioè, intendi dire questo? No. Io intendo sottolineare la rapidità di reazione della Juventus. Ah, ok. Prima, ancora una volta, la solidità della società, perché è evidente che abbia accompagnato anche passo dopo passo Allegri nel suo cammino iniziale alla guida dei campioni d'Italia, e non era facile raccogliere un'eredità pesantissima qual era quella lasciata dal suo predecessore. E lì si è vista la forza della società. È per quello che non mi spiego la battuta al vetriolo di Elkan, che peraltro ha fatto anche la figura del disinformato alla luce di quanto poi è accaduto nelle ore successive, fermo restando il fatto che comunicare ufficialmente che uno dei giocatori più importanti della nazionale della Juventus dovrà fermarsi per 6-7 mesi per una lesione al legamento crociato, e la sera invece scoprire che potrebbe andare in campo già sabato contro l'Empoli, è stato un autogol a livello di comunicazione incredibile. Tant'è vero che Conte se l'è presa molto con la federazione, risulta dalle cronache e dai retroscena della trasferta bulgara. Sì, è questione di pancia. Si è reagito in maniera totalmente emotiva. Anche perché sul web sono stati rovesciati addosso degli epiteti, delle contumelie, degli improperi che non stavano né in cielo né in terra, come se Conte si divertisse a sfasciare i giocatori della Juventus quando li chiama in nazionale. Certo, poi certo, sono arrivate certo, anche certo. Le immagini dell'infortunio certo. di Marchisio, che hanno spazzato via tutta questa ridda di congetture. Grazie direttore. grazie. È stato un piacere, grazie, grazie. Grazie a Savia Jacobelli. Pierre, rispondiamo insieme a Massimo da Palermo, poi ci vediamo con la borsa. Vai. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Dica. A voi. Allora, io non metto lingua sull'operato di Conte. Ah? Ma? Sto avviando la bambina a scuola. La bambina a scuola, ce la saluti. Come si chiama? La mia bimba Ludovica è piccola, c'ho due anni. Salutiamo tutti quanti Ludovica. Uno di questi nomi molto trendy, Ludovica, Lavinia, Giulia, nomi che fanno in questi anni. Molto bello, molto bello. Bene, è anche bella, quindi è giusto che Vittoria, quante vittorie ci sono? Speriamo tanto. Le vittorie non sono mai abbastanza. Massimo, riesci a dirci qualcosa o ha da fare? No, sono tutto per voi. Dica. Allora, io volevo dire questo: non metto lingua sull'operato di Conte, anche perché sono un grande stimatore di Conte. Solo che devo dire, non mi ha fatto impazzire ieri sera la nazionale. Devo dire la verità, un po' molto discontinua da un punto di vista dei ritmi, non velocissima. E poi, diciamo, il gioco di Conte, sappiamo tutti, si basa molto sulle ali, però forse o c'è un po' di carenza di ali che vanno veloce, oppure sono io che vedo altre partite. No, c'è carenza di ali, c'è carenza di attaccanti, tanto che mi risulta che i due cannonieri dell'Italia di Conte siano Pelé, dopo che ha segnato ieri il secondo gol in nazionale, e Chiellini. Quindi questi sono gli unici due giocatori con due gol nell'era di Conte. C'è carenza di un sacco di cose, no, Pierluigi? Sì, ma soprattutto di talento. Ti dico che le due caratteristiche principali di Conte sono, da un lato, l'intensità fisica e tecnica dell'allenamento, e dall'altra la forza caratteriale. La prima di queste due caratteristiche è molto difficile da instillare, perché Conte adesso si trova di fronte veramente a poco tempo a disposizione. E sarà difficile, secondo me, anche poi nella preparazione dell'Europeo, nei giorni che ci saranno a disposizione prima. È una caratteristica complessa da trasmettere, molto più difficile che rispetto al calcio dei club. Sulla seconda sono più ottimista, nel senso che penso che comunque, ti dico che un po' di fatica Conte la fa, sono d'accordo con l'ascoltatore, non è chiaramente la sua squadra del campionato. Forse deve cambiare testa anche lui, deve imparare a fare il CT, non l'allenatore. È stato sottolineato anche questo. Da un certo punto di vista, invece, io spero che non cambi mentalità, perché penso che appunto questa attitudine al lavoro sia una delle sue qualità migliori. Quindi spero mai che i giocatori si buttino nell'esperienza in nazionale e che la federazione riesca a trovare qualche spazio in più per fargli fare l'allenatore nell'interesse unico dell'azzurro. Dal punto di vista della personalità, invece, della qualità della gestione del gruppo, ecco, lì rimango convinto che comunque sia stata una scelta positiva quella di Conte, perché secondo me poi per Brambelli ha mille meriti, ha fatto un bellissimo europeo, non lo dimentico, però per esempio al mondiale si è visto che in certe situazioni un po' di confusione si era rilassato, aveva concesso troppa libertà al gruppo. Sicuro. Ecco, con Conte non credo che sarebbe successo. No, resto l'idea, Pier, che Prandelli l'ultimo anno di lavoro abbia perso la maniglia del gruppo. Allora, prima della borsa ti leggo tre messaggi. Uno è di Paolo: Mancini non vuole gli rondi nazionali perché rimarrebbe senza giocatori in allenamento da piano, questo è uno. Il secondo: Pardo ci aiuta a trovare una proprietà che porti una piazza numerosa e calda come il Pisa in Serie A. E poi il terzo: lo stadio era mezzo vuoto, i tifosi della Juve non c'erano, e se il Fuggiasco Leccese fosse ancora amato non ci sarebbero stati cori? Questo è di un ascoltatore che non si firma. Borsa. Nando San Vito per noi. Si ricomincia. Tutti convocati. Buongiorno Leonardo da Latina, 800240024. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Dica. Niente, un commento su Conte, sull'allenatore della nazionale, che per me non è eccezionale, è un grande motivatore, una persona che è ideale per risollevare una squadra da una situazione di crisi, così come ha dimostrato da fare nella Juve. È uno che motiva le persone, gli dà la giusta grinta, però poi secondo me gli manca quella brillantezza in più. È un grande ragioniere, ma non è un dottore commercialista. Dice. Gli manca per esempio. Però, è uno che tre non scudetti non sono un po' tenerlo insieme, no? Beh, ma tre scudetti però non possono essere casuali. Sì, no, anche perché possiamo pure che nel campionato italiano le altre squadre hanno un distacco enorme rispetto alla Juve. Quindi anche questo un po', sì. Beh, non... lui è uno che non fa giocare Pirlo e Verratti insieme. Verratti è il gioiello della nostra nazionale, è relegato in panchina, è uno che spesso fa giocare tre stopper dietro e spesso vediamo che il gioco viene impostato o da Bonucci o da ieri da, da quello dell'Inter, Ranocchia, però non c'è il centrocampista. Quindi chiaramente manca quella brillantezza in più. Io credo che Verratti finalmente troverà un posto da titolare in nazionale, anche se non è stato brillante in Bulgaria, anche se ieri è partito dalla panchina, ma era un amichevole, bisogna vedere Valdifiori. Cioè, in questo momento fossi io Conte farei giocare tutti e due insieme, sia Valdifiori, che è bravissimo nelle verticalizzazioni, che Verratti, perché è il futuro della nostra nazionale. Poi col tempo, non dimentichiamo che è molto giovane, la collocazione ideale anche con l'esperienza si troverà. E a proposito dell'esperienza, anche con Conte, cioè, non dimentichiamo che ha 45 anni, quindi ha avuto una trafila di una sequenza di esperienze tutte fortunate con altre squadre. È arrivata la Juventus, l'ha risollevata, l'ha fatta vincere 3 scudetti. Poi non so se questo valga la laurea dottore commercialista o valga semplicemente un diploma ragioniere. Ragioniere mi sembra poca roba, perché il lavoro che ha fatto la Juventus non è stato per nulla banale, quindi mi sembra un po' ingeneroso. Poi per il resto io sono d'accordo con chi dice che si cominciano a vedere le linee di un progetto, però sono anche d'accordo con chi sottolinea che poi per costruire un grande edificio servono anche grandi architetti. Quindi in questo momento la nazionale mi sembra tremendamente povera di talento. Poi bisognerà ragionare a lungo termine. È vero che il nazionale si brucia tutti in un attimo, però bisognerà ragionare a lungo termine anche sull'opportunità di tenere fuori giocatori che potrebbero essere pronti all'uso. Molti hanno fatto anche il nome di Toni. Se stiamo a guardare le carte d'identità è un conto, se stiamo a guardare la futuribilità della squadra è un altro. Dovessimo andare all'europeo con una squadra di questo tipo, in una competizione come un europeo che a maggior ragione brucia tutti in un attimo, in cui serve il colpo di genio, io non sarei molto ottimista sulle prospettive dell'Italia, Conte o non Conte. Luigi, provincia di Lecco, 800 24 00 24, numero verde. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Niente, io non vorrei tornare un attimo sulla polemica tra Elkan e Conte, no? Che sì. È saltata fuori sta storia dei 6, 7, 8 mesi. Ah. Io però non ho sentito né sui giornali né nessuno. Io vi spiego bene. Venerdì, io prima di ascoltare voi, ascolto un'altra radio che parla di sport, non faccio nomi. Sì. Quando è uscita la notizia dell'infortunio di Marchisio, hanno detto subito che, detto da tale Antinelli, inviato della RAI presso la, sì, la nazionale, l'infortunio si presentava molto grave e andava, sì, sui 7-8 mesi di recupero, quando ancora nessuno aveva parlato né di cosa era successo né di cosa. Io non so se è partito tutto da lì. Poi, tornando da Elkan, sì, la cronaca è questa, la cronaca è questa. La cronaca è quella. Elkan ha parlato per niente, perché io lo dico da juventino, Elkan meno parla meglio è. Sapendo anche, conoscendo bene Conte, che detto da lui stesso è molto permaloso, Elkan se la poteva risparmiare. Sì. Dopo le cose si risolvono, perché le parole si risolvono. Comunque la questione è tutta lì. Sì, non ho sentito segnato da nessuno questa storia qua. È stato questo giornalista della RAI che è saltato, certo, fuori a dire che infatti è il collega, ho avuto dei dubbi fin da subito. È il collega che è la stessa cosa che abbiamo detto noi. Cioè, io ricordo quel giorno c'era stato un tweet del collega Antinelli, per il quale peraltro ho grande rispetto, segue la nazionale, grande esperienza. E tutto è partito da questo tweet. Anche a me è sembrato strano il fatto che ci sia stata una diagnosi così, così repentina. Poi quello che è successo nelle ore successive lo conosciamo, ormai non fa neanche più parte della cronaca, forse neanche della storia. Tornato per Luigi Pardo, ci sei Pier? Sì, guarda, un buco d'audio sulla curva. Avevo sentito il discorso del Conte ragioniere. Ragioniero commercialista, vabbè. Non commercialista, insomma non sono tanto d'accordo. No, io neanche. Il Conte è un ragioniere, allora gli altri sono veramente... Sì. Tutti gli altri che non hanno vinto cosa sono. Poi che in assoluto ci siano stati un paio di esami di maturità, soprattutto a livello europeo, che Conte non è riuscito a superare, questo è evidente, lo sa anche lui. E non è detto che in futuro recupererà, però insomma... però anche nettamente al di sopra della media, diciamo, che è anche, ad inizio carriera. C'è, sai chi c'è? Sì, sai chi c'è in linea? Il Mondo, Emiliano Mondonico. Ciao Emiliano, buon pomeriggio. Ciao, a tutti e voi due in particolare. Che oggi... Dove sei? Sono appena arrivato qui nel cascinale, non posso dirvi niente perché non ho ancora. Non sono ancora andato a chiedere agli animali come stanno. però da notare la grandezza di Mondonico, che nel cascinale ha messo il wifi, la linea 4G si sente benissimo. Cioè, io sono molto... Mi dovrei dare due informazioni perché il telefono prende in maniera eccezionale anche nel cascinale. Ogni tanto arriva una cosa da pagare. Se arriva tu una paghi, cosa da pagare. Senti benissimo. Se non lo paghi, non senti più. Sì, davvero. Oggi Emiliano Mondonico che ha dichiarato allenare, l'ho letto sulla Gazzetta, sì. Il confronto Rai Aventura, allenare è una malattia. Per alcuni potrebbe essere, diventa anche una malattia mentale, Emiliano. Ma no, per tutti, sai non voglio quanti... dire per Conte, No, ma sai quanti scossoni che prendi, ma sai quante situazioni che devi superare. Sai quante diagnosi che ti danno, cioè quella più tremenda è che se la palla prende il palo entra sei un fenomeno, se la palla prende il palo esce sei una merda. E perciò immaginati che cosa devi sopportare attraverso questo percorso. Però dopo ti abitui, sai, una malattia più, una malattia meno, cioè ti abitui. Il problema è quando la malattia è uno solo, allora lì hai difficoltà ad abituarti. Però è vero, il calcio è una malattia, ma non solo per chi allena, sì, viene allo stadio, anche per chi ne parla. Sì. Se non è una malattia questa, dimmi. Cos'è una malattia? Dimmi, Pierluigi Pardo, dimmi. Ed è bella come molte malattie da questo punto di vista, no? Le malattie belle, quelle brutte lasciamo perdere. Ma come è migliorabile questa nazionale? Soprattutto hai fiducia sul futuro, perché insomma siamo usciti così, no? Da questa doppia partita Bulgaria-Inghilterra. Col tempo, perché per fare una squadra ci vuole tempo. Noi eravamo abituati con le nazionali, con i blocchi. Ti ricordi il grande Torino, ne aveva 10 su 11 che giocavano in nazionale. La Juventus anche se non andavano a fare l'allenamento, andavano in campo e sapevano cosa fare. Dimentichiamoci gli 8 della Juve ai mondiali, che abbiamo penso dove abbiamo fatto bene. È chiaro che lì sono 8 più 2, e perciò capisco anche Tardelli che mi dice quando andavo io non c'era bisogno di fare esercitazioni, e ti credo, eravate tutti voi che esercitazioni volevate fare. Cioè, adesso in questo momento è chiaro che c'è un po' di difficoltà. Avevamo 3 ragazzi della Juventus, 7 che magari non avevano mai giocato assieme, perciò tu capisci che se avessero fatto una grande partita da subito, allora chiaramente ci sarebbe da riflettere su che cazzo conta l'allenatore. E invece l'allenatore conta, e bisogna dargli del tempo. E è chiaro che la bravura dell'allenatore è quanto tempo ci mette a mettere in piedi una squadra. Però non ditemi che in 6 giorni uno mette in piedi di una squadra. Altrimenti mi sento proprio di aver buttato via una vita. Sì. E poi dopo vi dico anche la differenza tra la Bulgaria e l'Inghilterra, se volete. Allora me la dici dopo il traffico. Intanto devo salutare Pierluigi Pardo, sottolineando che, come diceva quello, serve amalgama quanto viene sta amalgama. Esatto, da quanto costa sta amalgama? Quanto viene? Dove si compra? Quanto viene sta amalgama al chilo? Ciao ragazzi, ciao mondo. Pier. Ciao, ci sentiamo, ciao, ci sentiamo ciao, domani. Ciao. Tutti convocati. Emiliano Mondoni, che eravamo rimasti alla differenza tra Bulgaria e l'Inghilterra? Sì. Qual allora, è? La Bulgaria abbiamo dovuto fare la gara noi. Sì. e perciò la Bulgaria ha potuto giocare di rimessa, di contropiede, e ci ha creato problemi. E non abbiamo fatto una bella partita, perché quando una squadra messa insieme in 4-4-8 deve fare la partita, è chiaro che va in difficoltà. Certo. E con la Bulgaria chiaramente nessuno era soddisfatto della gara. Ieri abbiamo incontrato una squadra che ha fatto la partita. L'Inghilterra ha fatto la partita, adesso si è messo nella testa che deve fare possesso palla. Perché se vuol giocare, che è il segreto di giocare come Barcellona, non è Messi, è il possesso palla. Dobbiamo mettere nella testa tutti. E l'Inghilterra si è messo nella testa che vogliono giocare come fa il Barcellona col possesso palla. Il problema è che ci vuole Iniesta e Xavi, no? Ma il possesso, capisci? E l'hanno fatto benissimo, andavano da destra a sinistra, da sinistra a destra, ci mettevano dal quarto d'ora ai 20 minuti per fare 10 metri in avanti, e perciò era l'ideale per noi. Quando riuscivamo a rubare palle in questo pressing ultra offensivo, eravamo davanti al portiere. Certo, e perciò certo. Secondo me l'Italia ha fatto una bella partita. Una bella partita, perché la partita l'hanno fatta gli altri e noi abbiamo fatto di conseguenza. Ed è giusto che sia così. Ripeto, dopo bisogna vedere quanto tempo Conte ci metterà per fare di questa nazionale una squadra, perché anche ieri non si è visto una squadra, anche ieri si è visto delle buone cose, delle buone ripartenze, ed era per lei sicuramente qualcosa di positivo Lampardo. Lo stesso Valdifiori ha fatto intravedere com'è il suo tipo di gioco, ma chiaramente se non hai davanti Cavano o Mancarone, diventa difficile metterla di prima senza che gli altri lo sappiano. Certo. E questo è un'altra prerogativa. Non è che abbiamo poco talento, però, perché adesso stiamo a dire o Valdifiori o Verratti o Pirlo eccetera, io tutti quelli vuoi li farei giocare, cioè Valdifiori, Verratti, non abbiamo campioni. Ma sai perché? Perché una volta, cioè da sempre, i campioni nascono e si diventa. Adesso come fai a diventare campione? Spiegami che cosa diamo noi ai nostri giovani per farli diventare campioni. Se una volta almeno andavamo al oratorio, giocavamo tutti i giorni e per forza dovevamo ingegnarci, perché giocavamo via via sempre con quelli più grandi, e perciò se volevamo prenderla con quelli più grandi dovevamo essere sempre più bravi, e perciò c'era questa scuola della strada o dell'oratorio che chiaramente faceva diventare campioni quelli che erano nati con le caratteristiche dei campioni. Adesso vai 2 ore alla settimana alla scuola calcio, vai a fare un allenamento al giorno per 4 giorni alla settimana quando giochi nella squadra primavera, e tu pensi che bastino 2 ore alla settimana alla scuola calcio o 4 allenamenti alla settimana in una primavera per diventare campione? Non riusciamo a capire che ci vuole molto, ma molto di più per diventare campioni. E allora non meravigliamoci se non abbiamo campioni. Non abbiamo campioni perché non abbiamo e non facciamo niente per far sì che chi nasce con queste caratteristiche vengano chiaramente aiutati. Il talento perciò, non basta. E perciò tu nasci col tuo talento, ma capisci che se nasci col talento sulla cima di una montagna dove non c'è neanche uno spiazzo in pianura, è difficile che diventi un campione. Certo. Sei nato con tante qualità e caratteristiche, però non hai potuto usarle, non hai potuto aumentarle, non hai potuto renderti conto che era chiaramente una cosa che ti veniva facilmente. Sul talento bisogna lavorarci sopra, bisogna farsi un mazzo così. Che si facciano un mazzo così, bisogna che questi giovani bisogna vedere se ne hanno voglia. No, che capiscono che solo attraverso la fatica si diventa campioni, se no saranno sempre dei personaggi, e più diventano personaggi e meno diventano veri. Sì. Perché dopo salta fuori il nome di Balotelli. Certo, il nome di Balotelli è destinato a saltare fuori ancora. Dico, ma cavolo, ma lasciamolo tranquillo, lasciamo che perda questa immagine di personaggio che diventi vero. E poi dopo sono d'accordo anch'io che uno come Balotelli ci farebbe molto molto comodo, ma uno come Balotelli che è vittima del suo personaggio, sì, sì. Cioè, Più che darci dei miglioramenti, ci peggiora ancora di più. Tanto che a me sta venendo il dubbio, anzi mi è già venuto, che non ne abbia poi tanta voglia. Quindi questo è, anche perché se ogni volta che cambi squadra, e ne ha cambiata qualcuna nel corso degli ultimi anni, vai a guadagnare sempre di più nonostante certi fallimenti, se già ne avevi poca, la voglia ti passa del tutto. No, ma io sono un personaggio. Cioè, tutti mi dicono che non sono a posto perché non faccio niente per diventare un campione. Ma ogni anno mi raddoppio lo stipendio, appunto. Ma loro sono deficienti, io sono deficiente gli altri. Forse il punto è quello. Terra è quello lì. Forse il punto è quello. E perciò io dico, alta Mumen, abbiamo fatto una brutta partita, benissimo, ma ci sono i perché. Lasciamo che questo allenatore, che è maniacale nei suoi atteggiamenti, nei suoi allenamenti, abbia la possibilità di mettere in piedi questa benedetta squadra. Non c'è più uno zoccolo duro. Non ci sono più 8 giocatori della stessa squadra che ti fanno fare il mestiere con molta noncuranza. Potresti anche essere un giornalista se alleni una squadra dove 8 giocano sempre assieme. Ah, certo. Un attimo, certo. Inserire due. Prendi due, il grande Torino, la Juventus che vinceva tutto, li metti lì e alla fine vanno da soli. Io posso anche averlo detto per caso. Il discorso, però, in questo momento abbiamo bisogno di mettere assieme una squadra, perché non abbiamo più quei blocchi che c'erano una volta. Anche sì. Perché se gli stranieri sono più tanti di noi, o li facciamo diventare tutti oriundi. Tutti oriundi, andiamo al supermercato e compriamo i passaporti, oppure diventa difficile. No, ma tutti oriundi, perché tutti discendiamo da Adamo ed Eva. Perciò dimmi perché uno non deve essere un mio lontano parente. Magari anche noi due siamo parenti. Ma magari perché, sì. Perché Adamo ed Eva sono stati i nostri pro esattamente, quindi siamo tutti fratelli. Grazie Mondo, ti abbraccio, forte. Grazie Emiliano Mondonico. Abbiamo il tempo di parlare con Enzo da Genova, 800240024. Buongiorno. Buongiorno. Magari siamo parenti, alla lontana. No? Volevo fare i complimenti a trasmissione, ma al mister che è fantastico. Fantastico. Una mia curiosità, io sono da parte rosso-blu di Genova, sì. E sentendo parlare con tutti i meriti di Verratti, ma anche il discorso di Bertolacci, che comunque è stato rivalutato in questi anni con mister Gasperini, potrebbe anche essere lui un'alternativa, un erede nella parte centrocampo. Sono convinto di sì. Cioè, sono convinto. Perché Verratti si sente parlare tantissimo, che l'ho già visto, è fantastico. Però a volte quello che si ha in casa, proprio, non dico proprio a Genova, ma in casa. Guardi, Enzo, certamente sì, ma questo l'ha dimostrato anche Conte, convocandolo, facendolo giocare l'altro giorno nei momenti caldi del post casino Marchisio. Non c'è Marchisio, che se fa? Gioca Bertolacci. Ha detto papale il commissario tecnico. L'unica variabile, l'unico punto, sta nel fatto che mentre Verratti gioca stabilmente a titolare in Champions League, molti di questi giocatori non hanno una grande esperienza internazionale, che è una cosa che a certi livelli, ripeto, in competizioni come un europeo o un mondiale è qualcosa che conta non poco, secondo me. Quindi l'unico dubbio che posso avere, l'unica remora che posso avere, poi possiamo parlare di Valdifiori, possiamo parlare di Bertolacci, possiamo parlare di Zaza, di tutti questi giocatori che sono in nazionale, però il problema è che abbiamo pochi anche giocatori con esperienza internazionale. Antonio Treviso, ce la facciamo? Sì, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ormai avete detto tutto voi. Allora. Siamo parenti anche con lei, comunque. Mi trovo molto d'accordo sul discorso Verratti, Valdifiori, Pirlo, Bertolacci. Io li farei giocare tutti anch'io. Sì, poi. Farei un bel centrocampo a 5 con una bella punta là davanti, che può essere ancora Toni, e qualcosa ne viene fuori. Difesa a 3, un bel centrocampo a 5. Sì, poi il ruolo più o meno si trova, a patto di non inventarsi delle cose strane, però se stiamo al discorso di Mondonico, all'Inghilterra è venuto in mente di fare un po' il Barcellona, di palleggiare e fare possesso palla. Questo paga, però, se hai giocatori in grado di farlo e soprattutto di verticalizzare quando è il momento. L'Inghilterra al momento non ce l'ha, anche se ha diversi giovani molto interessanti. Ci sentiamo dopo il GR. Non si rendono conto che il tempo è finito. Finisce qua primo tempo. Tutti convocati. Quindi voglio parlare con voi, 800 24 00 24. C'è un altro tema che mi intrigava, ma magari lo trattiamo domani, perché dicevo prima che ieri ho capito per la prima volta di che colore sono i seggiolini allo Juventus Stadium. Sono bianchi, almeno quelli sulla tribuna opposta rispetto alle telecamere. No, lo sapevo già prima che ci sono stato, ma comunque sto dicendo che per la prima volta è capitato di vedere almeno in televisione lo Juventus Stadium vuoto o comunque non totalmente pieno. Stadio che abbiamo visto pieno ad esempio per Juventus Verona di Coppa Italia. Poi potete parlare di politica dei biglietti, dei prezzi, di tutte queste cose, però ieri sera è capitato di vedere uno stadio da 40 e qualcosa mila posti che non era esaurito. Saluto, mi segnala giustamente Giorgio De Luca che ma abbiamo visto prima insieme le immagini, proprio facendo questo discorso e facendo questo confronto, abbiamo visto immagini di Germania-Australia amichevole, così come Italia-Inghilterra, certamente non Italia-Inghilterra, dove c'erano 50.000 persone. Saluto e ringrazio anche Federico Casotti che è con noi, direttore di gol.com Italia. Ciao Federico, grazie. Ciao Carlo, ciao a tutti. Beh, ciao. Direi che in Italia c'è un problema con le nazionali dal punto di vista proprio dell'appeal del pubblico, ma anche la partita dell'Under 21 a Benevento è stata giocata in uno stadio semivuoto, quindi direi che è proprio un problema. Beh, ma un problema generale, Federico, perché abbiamo letto ieri e in questi giorni e oggi sui giornali dell'ulteriore calo delle presenze Serie A, 21.850 spettatori di media partita, meno 6,9%, quindi è una questione di appeal delle nazionali, ma forse è una questione di appeal di, per quanto riguarda il calcio. Io per scrupolo mi sono andato a vedere, sono andato dietro i 10 anni così a caso, avevamo 10 anni fa 26.000 spettatori di media, ma notiamo soprattutto che sono il Milan, l'Inter, il Napoli ad aver perso molti spettatori. Ad un esempio, il Milan 10 anni fa aveva 63.000 presenze a partita, adesso ne ha 38.000 e ho sospetto che queste cifre siano gonfiate. L'Inter ne aveva 57.000, adesso 33.000. La Roma ne aveva 49.000, adesso è in crescita, però ne ha 41.000, quindi è un discorso probabilmente generale che potremmo fare. Si può parlare delle TV e non sono d'accordo, perché non credo che la TV sia un fattore decisivo nello svuotare gli stadi, credo che c'entrino altre questioni. Federico, però con te, prima di parlare insieme agli ascoltatori, volevo chiedere di un paio di temi internazionali, visto che questo è il tuo pane quotidiano. Due i dati che sono emersi ieri, a parte la ridicola sconfitta del Portogallo con Capoverde, ne parlavo anche prima con Pardo, però c'è la Spagna che ha preso due fischi ancora dall'Olanda e non sembra più la nazionale dei miracoli. Sì, ma anche l'Olanda, tutto sommato, è un'Olanda molto diversa da quella che abbiamo visto arrancante nelle qualificazioni. È un'Olanda che ha rischiato di perdere contro la Turchia, e se avesse perso contro la Turchia sarebbe stata quasi incredibilmente fuori dall'Europeo, con un piede e mezzo fuori. Quindi in realtà è stata una partita che ha clamorosa doppiamente, a mio parere. E il discorso della Spagna è il discorso tipico di quando c'è da pensionare una generazione d'oro. Accompagnarla alla porta con la massima delicatezza possibile, perché è giusto che sia così, visto tutto quello che hanno vinto, e dall'altra parte cercare di sperimentare evidentemente comunque con un materiale umano nettamente superiore ad esempio a quello italiano. Non dimentichiamoci della nazionale Under 21 che un anno e mezzo fa ha vinto l'Europeo e l'ha vinto sonoramente a spese dell'Italia, e del Bosch può comunque contare su un materiale a disposizione in prospettiva sicuramente migliore. E certo, poi secondo me ieri hanno contato due fattori nella Spagna: qualche esperimento di troppo, penso a Juanmi in attacco, non a caso insomma è Morata quello ad avere maggiori prospettive appunto come attaccante, e dall'altra anche il fatto di trovare davanti un'Olanda che comunque da dopo il 2010 ha aperto un conto personale evidentemente con la Spagna a livello ambientale e a livello di risultati, perché quello che è successo in Brasile ce lo ricordiamo tutti. Vabbè, sicuro, quello lì è difficile da dimenticare non solo per gli spagnoli. Maurizio Cesena, buongiorno. Sì, buongiorno. Salve Genta. Dica. Io sono un vostro ammiratore e vi seguo tantissimo. Grazie. Seguo anche la sera Cruciani con la Zanzara, ma questo è un altro discorso. Allora, io volevo parlare di questa nazionale. Questa nazionale ieri sera mi è piaciuta molto, devo dire la verità, soprattutto il primo tempo. Il primo tempo per me è stato molto bello, e vorrei darvi anche un attimino un filoncino di discussione, perché nell'Italia di ieri sera, soprattutto nel primo tempo, c'erano dei cesenati. Io telefono da Cesena, seguo questa squadra da quando ero ragazzino, e quindi ho visto molto bene Val di Fiori, anche se gioca nell'Empoli, lo so, però l'abbiamo creato noi a Cesena. Ho visto molto bene Eder, ha delle fantasie che mi piacciono molto e mi ricordano molto anche certe fantasie che ultimamente in nazionale non si vedono. Sì, rimane il mio, certamente, tutto vero, positivo l'esordio di Val di Fiori, è un giocatore di cui potremmo avere bisogno anche in prospettiva europea. Certamente Der è stato il migliore nel disposto combinato delle due partite che abbiamo visto in Bulgaria e quella di ieri sera. Il mio dubbio, Federico, rimane quello della poca esperienza internazionale di molti di questi giocatori. Sì, il dubbio è legittimo, cioè quanto di questa nazionale è realmente esportabile, nel senso di proporre ad esempio in un'ipotetica fase finale dell'Europa 2016, perché poi è lì che andiamo a parare, perché la qualificazione, voglio pensare che la qualificazione non sia messa in dubbio. Sono giocatori che chiaramente hanno ancora un anno di tempo per riuscire a esprimere, magari ad avere anche qualche esperienza europea, probabilmente l'anno prossimo, se rimarrà la Sampdoria dovesse qualificarsi per l'Europa League, se Val di Fiori ad esempio dovesse andare al Napoli, sicuramente hanno davanti un anno nel quale poter sicuramente migliorare sotto questo aspetto. Rimango dell'idea che comunque la formazione vista ieri sia una formazione assolutamente sperimentale e presa come tale da prendere. Sono risposte positive, ma per giocatori che devono essere intesi come complementi della rosa, certo, e non come basi fondanti. Sì, poi rimane da capire quali siano le basi fondanti di questa nazionale, perché mi sembra che non è che ci sia, non è che Conte abbia lasciato a casa comunque dei, quantomeno dei giocatori su cui costruire un futuro che verrà, perché chiaramente De Rossi farà parte di questa nazionale, agli europei Pirlo anche eccetera, però sono tutti giocatori appunto pronti per l'uso, ma non le basi su cui costruire la nazionale. Dimmi ancora una cosa, Federico, non abbiamo feedback ovviamente perché è già qualificata di diritto sulla Francia, campionato che conosciamo molto bene, mi sembra una nazionale invece estremamente interessante, estremamente piena di talento. Sì, io credo che senza mezzi termini penso che la Francia abbia davvero la possibilità di essere ciò che la Spagna è stata nell'ultimo decennio, perché parlano i nomi, è una squadra con un'età media molto bassa, ha giocatori come Evra, come Sagna in rosa che sono comunque un trade union con la vecchia generazione, però ci sono tanti prospetti che sono già pronti, giocatori under 23 come la Casette, come il Condogbia, come Griezmann, Fekir, che è stato oggetto nella mischia in queste settimane e ha subito risposto positivamente. C'è una base di giocatori che ha vinto il mondiale under 20 anche qui non più tardi di 2 anni fa e che sono comunque nei 5 grandi campionati, sono tutti, recitano tutti un ruolo da protagonista. È una squadra che ha una base, apprende la miglior base di under 23 in questo momento disponibile in Europa, ed è questo un aspetto sul quale magari forse non passerà all'incasso nell'europeo in casa, perché comunque in queste situazioni l'esperienza conta, però in vista del 2018 sicuramente, così com'è, ha tutto per essere una favorita d'obbligo. Sì. Grazie Federico, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Federico Casotti. Ciao. 800 24 00 24. Francesco Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei. Avevo due considerazioni. La prima su Mancini. Non è stato giudicato un po' troppo in fretta rispetto a Mazzarri? Cioè, è da dicembre che sta lavorando, per cui non credo che vada giudicato adesso, andrà giudicato quando avrà fatto un ciclo, secondo me. Uno. Due. Ma secondo lei c'è bisogno di giudicarlo Mancini? Cioè, è uno che lei sta dicendo quello che sta facendo all'Inter, quanto sta facendo all'Inter ora? Sì, rispetto a Mazzarri. Cioè, è stata una diagnosi precoce, però conto di alla fine i punti in classifica. È una squadra migliore rispetto a quella che aveva Mazzarri e non sta facendo meglio, è semplicemente questo, no? Quello. Sì, si può essere d'accordo parzialmente, nel senso che è da dicembre che lavora, sono 4 mesi, in 4 mesi non credo che riuscirà a fare i miracoli. Quello. Sì. Ma al di là di quello, io sento molto in giro, anche voi giornalisti, dire Conte, cioè la Juve deve ringraziare Conte per dove l'ha portata, da dove l'ha presa, dove l'ha portata. Secondo me c'è anche un discorso da fare al contrario, cioè è Conte che deve ringraziare la Juve per dove l'ha portato. E mica giusto, cioè dopo sì, vale, prendere un allenatore in odore di squalifica, secondo me è stato un azzardo puntarci. Però vabbè, si è dimostrato vincente. Beh, la squalifica è arrivata dopo, ma comunque non dimentichiamo da dove era partito Conte, cioè da una Juventus che collezionava 7 posti in classifica, una Juventus che spendeva molto sul mercato, spendeva anche molto male sul mercato, e con lui ha ricominciato a vincere. Quindi secondo me è un discorso che vale per tutte e due. Certamente per Conte andare ad allenare la Juventus è stato una grande cosa. Ha monetizzato nel modo migliore possibile questa fiducia che gli è stata concessa. Quindi Conte ringraziare Juventus ringraziare Conte, grazie a tutti, arrivederci. Questo è stato fatto con 3 scudetti in bacheca. Paolo Cuneo, buongiorno. Ciao, scusa, io volevo solo intervenire per una mia considerazione su quanto riguarda lista di voti. Sì. Ma io credo che il problema fondamentale sia credo la questa crisi, perché io poi una proposta show che vorrei fare a questo punto per la nazionale, perché non si possono mandare i biglietti gratis o comunque dare un prezzo che sia accessibile? Sì. Si parla tanto di nazionale, ma la gente si è innamorata. Teniamo conto che ormai le televisioni tu non puoi più vedere una partita se non hai o Sky o premio e ti costa, perché la partita comunque ti costa. Tu prova ad andare con una famiglia, con 2 figli allo stadio, a giorno d'oggi ti vanno almeno 100 euro, se minimo. Io naturalmente faccio questa occasione perché ogni tanto ci vado allo stadio, ma devo comunque fare attenzione ai costi. Certo. Oltretutto, un'amichevole è una partita, voglio dire, sì, ci va chi non ha mai visto la nazionale, benissimo. Però non andiamo a dare dei problemi, a dire che poi gli stadi sono vuoti o non so, la Milan o l'Inter o quant'altri, giustamente, ma in questo momento c'è un problema effettivamente economico. Questo credo sia un fattore più importante rispetto a quello della presenza delle televisioni. Ci sono 2 cose da aggiungere. Ieri abbiamo dato un'occhiata ai prezzi, i biglietti per la nazionale andavano dai 70 euro più caro ai 18 euro il meno caro. C'è anche da dire che ad esempio lo Juventus Stadium in qualunque partita contro qualunque avversaria è tutto esaurito. Poi è chiaro che evidentemente la gente fa delle scelte perché è così, e anche per ragioni economiche. Credo che questo discorso sia più importante rispetto a quello della presenza o meno delle televisioni, perché se uno è abituato ad andare allo stadio, lo stadio ci va a prescindere dalla presenza o meno delle TV. Vorrei tornare, andare su un altro argomento, però, se me lo permettete, anzi me lo permettete, voglio che me lo permettiate. 800 24 00 24, perché voglio tornare alle emozioni di domenica su quella pista in Malesia. Abbiamo un ospite. Yes, yes, yes, great drive, great drive. Grande numero guida. Uno is back, top class, Ferrari is back. La Ferrari è tornata. Fantastico, fantastico. Sei un grande, Seb. Davide Valsecchi, collaudatore della Lotus anche l'anno scorso. Ciao Davide. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, Vettel, grande pilota, ragazzo intelligente, se vogliamo dire anche furbo, eh? No. È sveltissimo, ma poi ha un talento, una capacità, ragazzi. È il meglio che c'è in giro. Sì, è il meglio che c'è in giro, meglio di Alonso. Ma in questo momento sì, chi è che lo pensa più Alonso dei tifosi ferraristi in questo momento? È dietro con una macchina che non va neanche tantissimo . E invece i ferraristi hanno il piacere e l'onore di avere un quattro volte campione del mondo che si impegna, che ha fatto una grandissima gara il primo weekend in Australia, ha già compiuto un capolavoro vincendo il secondo weekend in assoluto con la Ferrari, perciò meglio di così non si può veramente. E poi se urla nell'interfono forza Ferrari piace anche di più, eh? Cosa bravo, dici Davide? Bravo, cosa... vero accaniscione fesso, non so come si dica in tedesco ma in italiano si dice così. Verissimo, no, è proprio bravo, intelligente, poi non sbaglia mai, ha questa qualità fondamentale che veramente è sempre immune da errori, non sbaglia praticamente mai, almeno da quando l'ha ingaggiata la Ferrari, tutti i test invernali, prime due gare, non ha mai fatto un errore, cosa che invece sta succedendo un po' a Raikkonen, un po' la sfortuna, un po' lui che fa errori, non sta ottenendo quei risultati. Ma secondo te perché soffre la pressione, perché non riesce ad estrarre dalla macchina quello che invece riesce a tirar fuori Vettel, che come dici tu non sbaglia mai? Qual è il problema di Raikkonen secondo te? È difficile da dire, perché al venerdì di solito nella sessione del pomeriggio, le FP2, si provano le simulazioni di gara, perciò ognuno entra, ogni pilota entra e fa 20-30 giri per provare il passo gara. Sì. Ed è il secondo weekend consecutivamente in cui Raikkonen è più veloce di Vettel. Tutti perciò si aspettano che Raikkonen vada per la vittoria, e invece poi quello che lotta e ottiene i risultati è sempre Vettel. Arriva bene, alle TV ha dichiarato che forse Raikkonen ha bisogno di concentrarsi un pochino di più, e secondo me questa mi sembra sia l'immagine perfetta, nel senso la sensazione deve proprio tentare di essere sul pezzo nei momenti che contano, perché qualche volta un po' di disattenzioni gli fregano il risultato. Senti Davide, a me ha sorpreso, non so se anche a te, il passo gara della Ferrari, perché perché le prove eccetera eccetera, cioè è sul passo gara che a me la Ferrari è sembrata sorprendente. Verità, è stata sorprendente il sabato quando Vettel ha dimostrato di potersi lottare la pole position sotto l'acqua con Hamilton, quando l'anno scorso sotto l'acqua la Ferrari era sempre 2 secondi dietro, questa volta quasi fa la pole. E poi è stata sorprendente la domenica quando sia Vettel che Raikkonen, che rimontava dall'11° posto, hanno veramente tenuto un passo gara che era superiore addirittura alle Mercedes. E sì, questo è stato sorprendente per il fatto che nelle simulazioni, nei test e tutto erano sempre 4 decimi indietro, invece il caldo fa sì che la Ferrari vada meglio, è per questo che c'è da scommettere per i prossimi 2 weekend, perché in Cina non ne sono convintissimo, ma in Bahrain si lotterà ancora per vincere. Un'ultima cosa, arriva bene, non è il mago Ronzo come aveva già detto lui quando è stato presentato, però mi sembra che abbia carisma, che conosca l'ambiente, che abbia un feeling su come si coinvolgono gli uomini, e questa coppa Maranello a pranzo leggiamo oggi sui giornali, e questa è vostra, e insomma mi sembra uno che onestamente sia stato capace di portare un cambiamento. Forse è solo l'uomo giusto al momento giusto, però in questo momento fa veramente la differenza. Vero? Alcune scelte gli hanno fatti i predecessori, il fatto di ingaggiare Vettel cambiandolo con Alonso, che è stato fatto dal team manager dell'anno scorso, il fatto di ingaggiare Ellison, che poi ha costruito la macchina di quest'anno, che sta veramente dimostrando di volare. Però arriva bene, sta veramente facendo la differenza in pista. Il primo weekend abbiamo visto qualche errore al pit stop, al mercoledì i meccanici in pista in Malesia stavano già facendo le prove per migliorare il pit stop, la domenica pit stop incredibile, vittoria. Un sacco di fattori che fanno sì che in questo momento l'atmosfera nel team è speciale, è molto grazie a lui. I piloti, soprattutto Vettel, fanno risultato. Sicuramente il capo in tutti i mestieri ha un'importanza fondamentale e mi sembra che la Ferrari ce ne abbia uno forte, dirlo la verità, in questo momento. Grazie Davide, bocca al lupo. Un abbraccio. Ciao. Ciao, grazie davvero Davide Valsecchi, bravissimo. Luigi, provincia di Varese. Ciao. Che ci racconti? Cassano Magnago, la patria Cassano Magnago, certo, conosco bene. Volevo un tuo commento in merito ai rumors che diventano sempre più pesanti e insistenti di ora in ora sul possibile arrivo di Ray Allen all'Olimpia Milano. E mi chiedo, non è il punto uno, non è un po' tardi vista la situazione? E secondo, non è forse meglio andare a prendere uno un po' più giovane, un po' più di prospettiva, che possa magari venire utile anche l'anno prossimo, piuttosto che un Clay Zadue che gioca una partita sì e tre no? Domanda molto pertinente. Milano non penso farà altra strada in Eurolega. In quel caso un giocatore pronto all'uso, stiamo facendo discorsi molto ipotetici, perché io non credo che Ray Allen verrà, però dovesse far strada in Eurolega, è una squadra che certamente andrebbe potenziata da quel punto di vista. Per vincere il campionato italiano credo che non ci siano problemi, così com'è non vedo onestamente avversarie per Milano. Non sottovaluterei però l'effetto Meta World Peace, cioè in un campionato italiano che ha bisogno di personaggi, che ha bisogno di uomini copertina, che ha bisogno di qualcuno che lo faccia sognare, che faccia sognare non solo Milano ma gli appassionati di basket italiano. Io credo che dovesse arrivare adesso Ray Allen, anche solo con la prospettiva di giocare il finale di stagione a Milano nei playoff eccetera, ci alzeremmo tutti in piedi a fare la ola. D'altra parte tutto l'ambiente, ieri abbiamo parlato con Gianmarco Pozzecco, e tutto l'ambiente è concorde nel dire o nello scrivere, se leggete i giornali lo sapete, che Meta World Peace sia stato grosso modo una mano dal cielo per il basket italiano. A questo proposito, guardate, vi leggo, perché l'ho fatto oggi, il finale di un'intervista sulla Gazzetta dello Sport a Matteo Bonicioli, che è tornato sul luogo del delitto, cioè un meraviglioso delitto, cioè ad allenare la Fortitudo Bologna. E vi leggo la sua risposta. Metta sì o metta no? Questa è la domanda. Metta sì tutta la vita. Giocatore che mi riporta Gervin o a McAdoo, uno vero, non un clown a fine carriera, ma va veicolato nel modo giusto. Se tra un anno vedremo ragazzi difendere e passare la palla come lui, avremo fatto un investimento produttivo. Se invece compariranno sui campi degli sfigati che giocano con un panda che pende dalle scarpe, allora avremo perso un'occasione. Questo è il pensiero di Matteo Bonicioli, che non è lontano dal mio, anzi è identico. Francesco, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno a lei, gente, e agli ascoltatori. Bresciano come arriva bene, perciò complimenti. Bresciano come arriva bene, sì sì. Io sono tifoso rossonero e rispondendo all'ospite di prima che chiamava e diceva del perché, degli successi della Juventus, o è stato più un fattore Conte alla Juventus o la Juventus per Conte. Io direi purtroppo le scelte interne del Milan sono state il successo per la Juventus e per Conte, in particolare il mancato acquisto di Tevez, la cessione di Pirlo, e sono stati dei grandissimi assist, ahimè, per quanto riguarda la compagine bianconera. Sì. E poi da tifoso Olimpia una battuta all'NC, come del resto il Panda, sì, nel senso che certo, sono personaggi che al basket italiano mancano da tanto tempo, insomma sono anche quelli che molto banalmente abbiamo visto alla televisione, nell'NBA, e sono quelli che sono in grado di farci sognare. Siamo qui, Giorgio De Luca, il nostro autore, dice di sì, fa così con la mano, va bene, torniamo domani. Grazie a lui, naturalmente, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Domani, dopo le 2, tutti convocati, ciao. E basta adesso, grazie.